24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Deficit. La Spagna si impegna sugli obiettivi di riduzione, lo annuncia il primo ministro Mariano Rajoy. Il premier iberico esclude richieste imminenti di aiuto all'Europa, ma il governatore della Catalogna è pessimista. Erasmus a rischio, finiti i soldi comunitari per pagare alcuni progetti, tra cui la mobilità studentesca. Per l'Ocse l'italiano lavora tanto ma produce poco. Commercio al dettaglio, in agosto cresce dello 0,1% su base mensile nei paesi della zona euro, cala dello 0,1% nell'Unione a 27. Un saluto da Paolo Panceri in studio per questa edizione di 24 ore in Europa. Le regioni spagnole si sono impegnate all'unanimità a rispettare i loro obiettivi di riduzione del deficit, lo ha annunciato il primo ministro Mariano Rajoy. Ma secondo il governatore della Catalogna, Artur Mas, un aiuto esterno sarà inevitabile, dunque è meglio affrontarlo senza ulteriori ritardi. Ci spiega tutto Luca Veronese. Continua a trascinarsi la crisi spagnola e è la maggior causa di tensione su tutti i mercati europei. Rajoy, il premier spagnolo, però ha guadagnato tempo, riesce ancora a guadagnare tempo, avrà tempo forse fino a fine mese perché Moody's, l'agenzia di rating americana, ha deciso di spostare entro fine mese la revisione del rating spagnolo. E l'altra notizia è che anche con le regioni Rajoy è riuscito a spuntare una specie di accordo, di tregua, diciamo così. Certo è che i problemi restano tutti lì e forse il tempo non giocherà a favore della Spagna. Restano lì i problemi delle banche che si stanno ricapitalizzando a fatica, restano lì i problemi sul deficit legato quindi alla spesa pubblica e di nuovo alla spesa delle regioni. Una cosa è certa, lo ha detto a Madrid il commissario agli affari economici europei, Olli Rehn, la Spagna per avere il salvataggio che prima o poi forse dovrebbe arrivare, dovrà certamente rivedere il quadro del sistema pensionistico e questa sarebbe davvero per Rajoy l'ultima sconfitta perché ha sempre promesso che mai avrebbe toccato le pensioni. La Commissione europea ha confermato che nel bilancio 2012 sono finiti i soldi, si parla di alcuni miliardi di euro, per pagare le fatture già emesse per una serie di fondi europei, tra cui il Fondo Sociale, il Programma Erasmus e il Fondo per la Ricerca e Innovazione. E che il 23 ottobre il commissario al bilancio, Janusz Lewandowski, presenterà una proposta di bilancio correttivo molto, molto importante. Ma sentiamo i probabili contraccolpi che potrebbe avere l'Erasmus. Sono cattive notizie quelle che arrivano dal Parlamento europeo. Non è rimasto un euro al Fondo Sociale e dalla prossima settimana il programma Erasmus finirà i soldi, ha dichiarato il presidente della Commissione Bilancio Alain Lamassoure. Le fatture presentate per i progetti già eseguiti resteranno insolute perché, ha aggiunto, solo per il 2012 c'è un buco di 10 miliardi di euro. Secondo Eurostat, per l'anno accademico 2010-2011, in Italia sono arrivati circa 20.000 studenti stranieri, mentre gli italiani in Erasmus sono stati poco più di 22.000. Spagna, Francia e Germania le mete preferite. Dopo 25 anni dalla nascita, il futuro del programma di studio più popolare tra gli studenti universitari europei è destinato dunque a fallire? Secondo i calcoli fatti da Lamassoure, i pagamenti che rischiano di non essere erogati, a meno che non venga approvato un bilancio correttivo per il 2012, sono nell'ordine di 900 milioni di euro per la Spagna, 600 per Italia e Grecia, 400 per la Francia e 150-200 milioni per la Gran Bretagna, il cui governo è in prima fila nel reclamare tagli al bilancio europeo. Entro domani la Commissione Bilancio voterà poi il progetto di budget europeo 2013. Luisa Perona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Secondo l'Ocse l'Italia è al top per le ore lavorate. L'italiano medio lavora 1.774 ore l'anno contro le 1.573 della zona euro. Eppure la sua produttività, calcolata dall'Ocse come PIL per ora lavorata, stenta. Nel 2011 ammontava a 45,6 dollari, contro quasi il doppio della prima della classe, la Norvegia, 81,5, che però totalizza il 20% di ore in meno al livello della virtuosa Germania. Il commercio al dettaglio ha registrato ad agosto una crescita dello 0,1% rispetto al mese precedente nei paesi della zona euro, mentre è calato dello 0,1% nell'Unione a 27. Secondo Eurostat, a luglio segnava una crescita rispettivamente dello 0,1% e dello 0,2%. Chiusura contrastata per le borse europee, deboli Madrid, meno 0,51% e Parigi, meno 0,24%, positive Londra, più 0,28%, Milano, più 0,25% e Francoforte, più 0,22%. Le borse europee vivono una seduta incolore, principalmente in attesa della tanto sospirata richiesta di aiuti da parte della Spagna e del dato sull'occupazione USA che verrà diffuso venerdì. A Milano, dove il FTSE MIB chiude a più 0,25%, recuperano terreno le banche con Unicredit, più 1,4% e il Banco Popolare Popolare più 1,3%, oltre a Telecom Italia più 1,7%, che l'altro ieri aveva ceduto il 2,3% sui timori legati ai contenziosi della controllata brasiliana. Acquisti anche su Impregilo più 1,7% e sulla Galassia Fiat, premiata dal balzo delle vendite USA con la controllante Exor che guadagna l'1,5%. In coda al listino invece realizzi su A2A meno 1,1%, che comunque veniva da un rally di due sedute, mentre chiude quasi sulla parità Finmeccanica meno 0,3%, che durante la giornata era arrivata a perdere anche 2 punti percentuali. Sul resto del listino ancora una fiammata per Ross più 11%, mentre Mondadori più 8,9% cavalca un report positivo di Mediobanca. Ciò Condina da Radio Cor per Radio 24 e Sole 24 Ore. Il commissario alla politica agricola europea, Dacian Ciolos, non nasconde la sua inquietudine sul bilancio europeo del settore agricolo post 2013. Per Ciolos, a Budapest, per il congresso delle cooperative dell'Unione, gli Stati e il Parlamento europeo devono assolutamente confermare la proposta della Commissione. La nostra priorità, ha affermato il ministro delle politiche agricole, Mario Catania, è quella di assicurare un giusto ritorno agli agricoltori italiani in termini di sostegno economico. Appuntamento con i grandi temi dell'agricoltura europea nel fine settimana di Radio 24 con i nostri reportage. Incidenti dolosi con foreste e abitazioni divorate dalle fiamme e la nuova strategia terroristica che Al-Qaeda intende attuare contro l'Unione Europea. Lo ha sostenuto a Mosca il direttore del Servizio di Sicurezza Federale, l'ex KGB Alexander Bortnikov, confermando le indiscrezioni della rivista in inglese online Inspire. Ora gli spettacoli. Inizia oggi, fino al 16 ottobre, il tour Quando mangio mi sento un re, manifestazione di musica, teatro e arti figurative, con il contributo dell'Unione Europea per promuovere la sovranità alimentare. Protagonisti Cinzia Tedesco, Diego Parassole e Rosalba Falzone. Cinzia Tedesco proporrà Like Bob Dylan fra jazz e canzone d'autore. Sono molto coinvolta da questo progetto perché Dylan lancia messaggi importanti contro la disparità sociale, anzi contro il baratro sociale che ormai viviamo tutti giorni, contro l'emarginazione, contro la guerra, e quindi sono dei brani assolutamente pertinenti in linea con la manifestazione. All'interno di questo spettacolo presento con Stefano Sabatini al pianoforte, Luca Pirozzi al contrabbasso, Giovanna Famulari al violoncello e Pietro Iodice alla batteria, presento questo spettacolo musicale, la rivisitazione in chiave jazzistica del repertorio di Dylan. Una versione molto nostra, ecco, lo abbiamo, è un progetto che abbiamo costruito io e Stefano Sabatini, appunto, con la direzione musicale di Pietro Iodice, facendo in modo che la libertà, anche la fantasia, anche l'emozione che trasmette la musica di Dylan fosse sottofondo giusto, ecco, per tirar fuori un progetto jazzistico. E il jazz poi è quella libertà, è fantasia, è emozione. Dal calcio spagnolo è nata quella che si potrebbe definire una crisi diplomatica internazionale. A provocare gli attriti è il caso Shalitti, il soldato israeliano a lungo prigioniero di Hamas, invitato dal Barcellona ad assistere alla sfida con il Real Madrid, in programma domenica. I madridisti hanno risposto con un comunicato ufficiale di impronta filo-palestinese. Sono comportamenti irresponsabili, dichiara Radio 24 Mario Pescante, ex vicepresidente del CIO e rappresentante del Comitato Olimpico Internazionale presso l'ONU. Lo ha intervistato Dario Ricci. Queste cose disuniscono, non uniscono. La presa di posizione per l'una o l'altra parte in maniera così plateale non aiuta nessuno. Io sono molto sorpreso e devo dire anche dispiaciuto, anche perché il calcio soprattutto è stato utilizzato più di altre discipline proprio per realizzare i nostri progetti. Io mi auguro che la UEFA intervenga per queste cose, sono addirittura la FIFA. Sono iniziative che creano disunione, contrasto, conflitto, e in quell'area non ce n'è bisogno. Crede che questa vicenda possa avere un'influenza sulla corsa di Madrid a quelle Olimpiadi del 2020, per cui Madrid è appunto ancora in corsa e Roma no? È una vicenda che può avere un peso? Guardi, io non vorrei esprimermi in questo momento perché voto, quindi farò le mie valutazioni su questo discorso. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Daniele Teruzzi in regia tecnica e da Paolo Panceni in studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.